servo più degno è l'aver stretto il cuore dal tuo impegno. Come? Son re, son padre, col mio voler consigliar del suo core. Una real donzella delegarsi al dover pria che all'amore. A chi fia qui l'autage amante di mia figlia? Chiedilo a lei, ullo di lo affinito. Stelle, che mai sarà? Su via lo scopri, sorpresa tu ammutisci. Ah, quei pallori dicono assai per una grande accusa. Narrami, o Filindo. Sì, sì, racconta pure tutto ciò che testè tu mi dicevi. Non indugiar, leverò palla e tutta il padre, il re, l'amante ascoltino l'offesa. Ma che pensi, a che badi? Ma già che risoluto saperlo vuoi, al fin dirlo ne forza. Non è che io stesso vidi il dire Turilla starsene assieme in solitaria morte, indi celato di giuramenti di lor fede a vicenda. Integno menti, come innocente fio amo il mio e non il mio, o pure quest'onore ne giunse voi offesa dell'amore con un pensiero. Ma per il miravanti, e questo è vero, or senti la mia legge, pria che tramonti il sole, vuo che a novio tu stenda la man di sposa. Intanto vo d'ordinar la caccia e la dovuta del giubilo come un solenne pompa. Ma chi in esser ritrovi, lo segue il re, l'ubbidienza il padre. Il tuo dover col mio voler consiglia, giudice ti sarò, tu non più figlia.